23. Londra, 19 di marzo 1776. Onorato cugino John, vi scrivo poiché ho appena appreso della provocazione orchestrata contro di voi e la nostra famiglia dai ribelli di Albany. Al Ministero delle Colonie è giunta notizia che gli indiani di Fort Hunter hanno accompagnato il generale Schuyler fino a Johnson Hall per controllare che nulla venisse fatto contro di voi, se non privarvi delle armi e della polvere. Credo che lo spregevole comportamento degli indiani si possa spiegare soltanto con un'offerta di denaro, liquore o altro. Vi prego di verificare questa ipotesi e soprattutto di sincerarvi se i ribelli, al contrario di quanto si pensava, possiedono beni a sufficienza per intrattenere con gli indiani una parvenza di commercio. Nel qual caso bisogna senz'altro ricompensare per la loro fedeltà i Mohawk di Canajoharie con regali di valore almeno doppio, in modo che gli altri vedano dove risiede la convenienza. A proposito della fedeltà degli indiani, vi pregherei di darmi notizie circa le attività di Butler a Niagara e i rapporti che intrattiene con i capi Seneca. Quanto a noi, lo scopo che ci eravamo prefisso con questo viaggio è ormai raggiunto. Dopo 2 mesi di attesa, abbiamo avuto l'onore di essere ricevuti da Sua Maestà e dal Ministro delle Colonie. Egli si è mostrato così contrario alla condotta del governatore Carleton che ha voluto porgere a Joseph Brant le sue scuse ufficiali per quanto accaduto in Canada. L'incarico di commissario, infine, mi è stato conferita per mano stessa del ministro. La sorte del signor Daniel Klaus, tuttavia, resta incerta. È dunque necessario rimanere ancora a Londra, onde chiarire meglio la questione della sua nomina. Inoltre, Joseph Brant deve conferire una seconda volta con Lord Germain per avere risposte sulle controversie territoriali che gli ha presentato. Non vi nascondo che la presenza dei nostri indiani, ben più dei prigionieri catturati a Montreal, c'è stata di grande utilità. La gente di Londra li considera al pari di principi ed essi sono diventati una tale attrazione per l'aristocrazia che ormai nessun intrattenimento può fare a meno di includerli tra gli ospiti d'onore. Non ho altro da aggiungere, ma resto, con stima e premura, il vostro affezionato colonnello Guy Johnson. Dopo aver firmato, il commissario soffiò sull'inchiostro, sollevò il foglio e rilesse dall'inizio. Era una buona lettera, eppure sentiva ancora un nodo in fondo alla gola. Non c'entravano la politica, la diplomazia, gli indiani. Il fatto era che di tutte le cose, quella che più lo opprimeva non poteva confessarla né mostrarla a nessuno. Il colonnello Guy Johnson aveva paura. La spedizione a Johnson Hall era a tutti gli effetti il primo atto di guerra nella Mohawk Valley. Il nuovo commissario per gli affari indiani delle colonie settentrionali sarebbe rimasto volentieri a Londra fino all'inverno successivo e forse anche oltre, non fosse stato per tutte le ricchezze che aveva accumulato nel Nuovo Mondo, sarebbe tornato in Irlanda dalla sua gente. Dove avrebbe portato le figlie? L'esodo, le fatiche del viaggio avevano già ucciso Mary e il bambino, l'erede che doveva chiamarsi William ed era morto prima di avere un nome. Esther e le piccole erano l'unica famiglia che gli restava. Non poteva permettere che la guerra travolgesse anche loro. Doveva lasciarle a Londra, al sicuro, trovare un buon collegio, tornare in America da solo, vedere di persona, giudicare, preparare un approdo, riconquistare in fretta le terre dei Johnson, scacciare i ribelli, tornare a vivere. Il colonnello Guy Johnson aveva paura, odiava i cannoni, non gli piaceva nemmeno la caccia. A Londra te lo potevi permettere, nessuno pretendeva dal conte di Warwick che fosse bravo a sparare. A Londra potevi essere nobile, mercante, giudice, ministro. In America eri prima di tutto un guerriero, come gli indiani. In America sapevi, prima o poi, che ti sarebbe toccato combattere, rischiare la pelle. In America la ricchezza, il potere e il prestigio stavano sulla canna del fucile. Avere paura non era permesso.